Schritt und ziehe mir des steiles Jahres im Mars. Min Schritt und ein Quirl ventira alles Bars. Min Schritt und Temmel da desser per Sulse Wand. Min Schritt und Anfl mit Metz, der Vision Mincia ton un gol il verbunze sentiments. Mincia ton consiglio il da romper con da me. Mincia ton s'immagina da sgullar sur grau. Mincia ton già vige da scappar o da clau. Vai duras canta, da cumiau e da mu, a qual da saiel, plia già fa cresce la flu. Da stagion, a stazion, vin avant, an avant. Plantes diem Mincia ton aude coi bragia neria Mincia ton vieu ch'il vent continuo per mai Mincia ton se da mondo scillai bien scolai Mincia ton cammina per esser camminato Mincia ton blido per esser remblidato Mincia ton scappel per buca venir tradius Mincia ton un quirl per bu sa sentir Mincia ton dice il manzegna spince grondes Mincia ton dice il verdad forse inventades Mincia ton stuneri per mirar a na vos Mincia ton vai duro sconte Da cum iau e da mu A qual gassaiel plia già fa cresce la Da stagion a stazion, vin avant, an avant. Mincia ton già vige da sciai vin avant. Mincia ton se piardel per venir ne un amor Mincia ton vi cuor per bocca camminar Mincia ton vi sta per bo stu e regolda Vai Da stagion, a stazion, vin avon.